Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cos'è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto, mi sentite? Io è dal 92 che lavoro con l'Africa del Nord e lavoro con i musulmani dalla mattina alla sera degli arabi. Sono un ammasso di persone, non tutte, ma la maggior parte, di approssimativi e non arrivano mai da nessuna parte. Qui vengono qua e vogliono le moschee, vogliono questo. Tu prova ad andare a fare un capitello 10 cm per 10 in quei paesi là, cosa che fine fai? E allora loro parlano tanto. Sono signori che sono laureati alla Sorbonne, vengono qui in Italia, li fanno di tutti i colori, giusto? Puttane, mangiano maiale, bevono champagne, ritornano di là e. Dove salta fuori sto ubriacone? No, è un ubriacone che lavora e fa 2 miliardi all'anno di fatturato, coglione che non sei altro. Hai capito? Anche. No, mi interessa, se vieni vicino, mettilo anche una granata sulla testa. Perché meriti questo, Cruciani, tu sei una grandissima, brava persona. Quello lì lo devi buttare fuori dai coglioni, quello lì. Pietro, qual è la tua occupazione? Sì. Cioè, qual è la tua impresa? Cioè, cosa fai? Io sono un finanziatore e ho aziende di abbigliamento. Quando io sento parlare quel deficiente lì che hai vicino, scusami il termine, quello è un deficiente e anche delle mie parti, perché io sono di Vicenza, ma lui è di Padova. Quello là, quello è aggressivo, tu sei un coglione, tu sei dato sotto un cavolo marzo e stai buttando fuori il solo di Zania. Hai capito, coglione, che stai rovinando i ragazzi che stai facendo ancora lotta di classe nel 2017 tra fascisti e comunisti che sono passati 70 anni, coglione. Ma vaffanculo, testa di cazzo, che non hai né arte né parte, sei solo un chiacchierone e basta. Hai capito, Mona? Hai capito, Mona? Hai capito, Mona? Mona? Mona? Questo era Pietro da Padova. Sì, questo è un problema con l'alcol. Problema con l'alcol. Mi correggono, Pietro da Vicenza. Da Vicenza, sì, comunque ha dei problemi grossi con l'alcol, come questa copertina di La Corte può dimostrare. Problemi di alcolici. Andiamo avanti. In collegamento da Torino stasera, David Parenzo, eccoci qui. Buonasera, amico mio. No, voglio dirti subito questo in apertura. Fiera del libro, Fiera internazionale del libro di Torino. È la solita marchetta tua, no? Solita marchettona. Grande intellettuale, tu non hai idea della quantità di gente che mi ha abbracciato, sì, e mi ha sussurrato nell'orecchio: Parenzo, siamo la maggioranza silenziosa. Ma va, ma la no. Quantità di, ma gente. Non è vero, ma non è vero. Tra questi c'erano molti ragazzi, uno in particolare di 13 anni. Sì, 13 anni. Io ho detto, vergogna. Maggioranza silenziosa anche lui? No, ragazzo di 13 anni che mi ha detto grazie, perché grazie a questa trasmissione io ho imparato che cos'è lo squirting. Aveva 13 anni. Ma non è vero, non è possibile, dai. Ti posso assicurare. Cioè, a 13 anni il padre, sì, gli ha consentito, sì, dice, di imparare questa pratica. C'era il padre vicino, è una scolaresca di Cuneo, per esattezza, se non dico di più perché mi sono intrattenuto pochi minuti. E quindi, scolaresca di Cuneo. Il padre che ha, dice, guarda, mi avete tolto un problema, ti assicuro. Perché io ho difficoltà a fare l'educazione sessuale a mio figlio. Non è che è necessario sapere cos'è lo squirting a 13 anni. È quello che ho provato a dire anch'io. Esattamente, cioè... quello che ho provato ad argomentare. E invece anch'io. Il padre. E invece il padre dice: ti prego di riferire questo anche al dottor Cuciani. Dico, sarà felice, lo dirò senz'altro in apertura. Quindi, scolaresca di Cuneo incontrata alla Fiera del Libro di Torino. E niente, chiudiamo qui perché. Ma non c'è niente da chiudere, non c'è niente da chiudere. C'è da, chiudere, c'è da aprire invece. Di teste, di cose, c'è invece di... da aprire su una, sì, cosa incredibile, ragazzi. Hanno condannato Marione Borghezio, sì, a pagare 50.000 euro. Benissimo. Per diffamazione, c'è aggravata, giustizia, dall'odio razziale. Ottimo, hai visto? No. Io spero che tutti quei miserabili che chiamano, spero che abbiano un filino di paura in più rispetto alla facilità con la quale. Sì. Una sentenza che fa storia, amico mio. Una sentenza che fa storia. Ma dopo diglielo quando ci colleghiamo, magari con Marione, eh. Dopo diglielo in faccia. Una sentenza. cosa storica. Comunque, che fa storia. Le frasi furono pronunciate in questa trasmissione, sì. Era l'aprile di quattro Corretto. Anni fa. L'aprile Corretto. Di quattro anni fa. Con chi ce l'aveva secondo te Marione Borghezio? Ce l'aveva con la ex, con l'allora ministra Kyenge, la tua amica Kyenge. Sì, la quale dei, uno dei ministri migliori degli ma migliori, ministero inutile dunque sì, ingiudicabile. Inutile ma utile sul piano della comunicazione, dell'immagine. Allora, Borghezio disse innanzitutto che lei ha tolto un medico italiano, sì. Cioè ha tolto il posto ad un medico italiano. Sentiamo lei è italiana peraltro. No, chi è nato in Congo e non ha alcuna preparazione, chi è nato in Congo è nato a Torino e non ha una preparazione adeguata, faccia quel che deve fare. Gli abbiamo dato un posto in un ASL che evidentemente è stato tolto a qualche medico italiano, buon per lei. Cittadinanza data alla cazzo, così disse Borghezio. Perché la cittadinanza viene data un po' alla cazzo, e parliamoci chiaro, quindi questo, che uno sia diventato cittadino italiano non è che sia il timbro sulla sua, poi magari in questo caso si tratta di una bravissima persona, devo dire che l'espressione è simpatica, mi sembra una brava casalinga, ecco, la vedrei molto bene come assistente sociale di un comune di 500 abitanti, non ministro. Si tenga le sue tradizioni tribali. Giuridicamente abbiamo, non siamo nati ieri, senza offesa per nessuno, non siamo congolesi e abbiamo un diritto bimillenario fondato sullo ius sanguinis. No, dice non va bene, bisogna basarlo sullo ius soli. Io capisco che le sue tradizioni tribali siano quelle, però le nostre sono diverse. Il governo del bonga bonga. Buona Padania, perché con questo governo viene veramente voglia a chiunque di fuggire dall'Italia. Col governo del bonga bonga, ebbene, con un governo di questo genere, abbiate pazienza, questa non si è ancora insediata. Vabbè, queste è un po' di dichiarazioni per le quali Borghezio è stato condannato a cacciare 50.000 euro più spese legali. Beh, insomma, no, è molto preoccupato da quello che mi dicono, no, il Borghezione. Non posso immaginarlo, perché una sentenza così sicuramente è pesante, però deve essere di monito per tutti. Ma quelli, no, ma no, ma per mi sembra combattivo. Che con leggerezza chiamano e usano quelle parole di vergogna, sia di monito per loro. Sia di monito, ma non ha detto niente, guarda che ne ha dette di peggio, è stato condannato per delle frasi, in parte quelle che avete sentito, sì. Ne ha dette ancora di peggio, no, Borghezio. No, semplicemente sono felice perché... Ma sei felice? 50.000, poveraccio, no, 50.000 euro... Lui, ma che danno ha avuto la Kyenge, dai, che danno ha avuto da quelle parole, dai. Io dimonito a tutti quei miserabili. Ma va. Per loro deve essere. Ragazzi, fermi, la supercazzola di Fusaro, la nuova supercazzola del filosofo marxista. Non si capisce una mazza, senti. Io penso molto semplicemente che si stia producendo oggi una guerra fra gli ultimi nel piano orizzontale, che si declina come lotta fra chi ha ancora una casa in cui vivere e chi non ce l'ha, e si crea un conflitto nel basso. La tendenza generale oggi, lo sappiamo, è quella alla precarizzazione completa del lavoro, del mondo della vita, con una creazione connessa di una plebe moltitudinaria, senza casa, migrante, senza identità, che si muove nel piano liscio browniano della globalizzazione. Ma ragazzi, questa qua è veramente guarda che browniano, non è Baumann. No, ma ragazzi, è una cosa incredibile. La supercazzola di Fusaro, filosofo. Ma facce capire, parla come mangi. Parla come mangi, amico mio, quando vai in televisione. Non si capisce una mazza, Fusaro. Poi passiamo a dalla vostra parte, caro Parenzo. Dalla vostra parte ci propone la Beccalossi, la bionda consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che tu hai ribattezzato più volte Manganelli d'Italia, contro Li Brandi, contro Cecchi Paone. Poi si inserisce pure la leghista Ceccardi. Senti. Molto importante. Tutte cose inventate da te, facci vedere i dati, no? Cioè... Bello, ma di che cosa stai parlando? Ma Li Brandi, io parlo dei dati forniti dalla prefettura di Brescia, cretino. Ma senti di che cosa sto parlando? Per favore, bugiardo lo dice qualcun altro. Scuso per gli insulti, qui non li vogliamo. Neanche un bugiardo, però. E Belpietro dice: gli insulti qui non li vogliamo, ma ne piovono ogni giorno a tonnellate. Belpie, fatene una ragione, è normale, esalta questa cosa. Gli insulti qui non li vogliamo, ma ogni giorno arriva di tutto, arriva, cretino, ma è incredibile, dai, su. Beccalossi contro Cecchi Pavone. Beccalossi sarebbe la fatina bionda. Sì, sì. La interrompo, ho detto che è provato dalla psicologia clinica e dinamica che se lei non reagisce non la ammazzano e lei non ammazza nessuno. Sei ignorante e non dica stupidaggini. E allora qui stasera abbiamo completato l'opera, cretino, ignoranti tutti quanti. Noi vogliamo un paese pacifico. Da un giornalista che cambia di ogni 5 minuti della sua vita. Allora, cosa io sarebbe dico solo che in un paese... Alessandro, io un momento, per favore. Ma che cavolo! Ma che cavolo! Se la fai finire e ci calmiamo tutti, andiamo avanti. Non, guardi che non mi sta offendendo, Poi a un certo punto arriva il sindaco di Cascina, l'altra volta abbiamo detto Cecina, un lapsus, la Ceccardi, uso il Kalashnikov. E saluto anche Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina della Lega Nord. A proposito, ho visto le sue immagini, prima l'avevamo mostrata con la pistola, qui capisco bene o quello è un Kalashnikov, Ceccardi? Sì, mi allenavo al tiro sportivo, al tiro a segno. Sportivo, però lei passa dalla pistola al Kalashnikov, poi ci spiega anche perché. Ceccardi contro Cecchi Paone. Sicuramente meglio un brutto processo che un bel funerale. Al signor Guido. Questa è Susanna Ceccardi, con la pistola. Vabbè, al sindaco di Cascina. Questa ama al la signor, violenza, la morte, signor... e la sparatoria, in UE inevitabile. Ma quale violenza? Lei ha una passione Paone, guarda, per le armi, per la morte, conducevi... per le sparatorie. Ma che hanno le enorme mani, ma mi vede, ma cosa dice? La vedo, ogni volta sempre con un'arma più grossa, la prossima volta un bazooka e poi un carro armato. Lei ama le armi, ama la violenza, che... ama la morte. A un certo punto Librandi si inserisce e dà della stronza alla Ceccardi. Senti, no, ti giuro, è veramente incredibile, dai. Io ce la metto tutta, se non ce la faccio mi scuso con tutti gli italiani. Magari ci guadagneremmo tutti se lo facesse il signore al posto suo. Ma poi voglio dire, parla lei che è stato eletto. Che stronza che sei. Ma per favore, Librandi. Mi scuso con tutti, questa sera siamo fuori dalle righe. Ma questa sera siamo fuori dalle righe. Abbiamo ascoltato: sei un cretino, sei un ignorante, fascista, stronza. Top assoluto. Top assoluto. Quando è che chiudete, cornuti? Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta La Zanzara. Maggioranza silenziosa! Allora, manifestazione di Roma. Voglio dire, appello alla maggioranza silenziosa, non accettate provocazioni. Come disse Palmiro Togliatti dopo l'attentato davanti alla Camera, sì. Compagni e compagni, non sparate. Compagni, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ti ricordi quando ci fu l'attentato? Ma chi se ne frega? Cioè... fu portato via in ospedale. E allora? E si avvicinarono i compagni partigiani. Pronti ovviamente anche a fare, e dissero: che facciamo, migliore presente? Sì. Compagni e compagni, non sparate. E allora? Quindi l'appello che faccio alla maggioranza silenziosa è: noi siamo la forza tranquilla, non accettate provocazioni. Qualcuno ha fatto sbeffeggiandoci, siamo tanti, non accettiamo provocazioni. Compagni e compagni, stiamo calmi. Continuiamo. Ma calmi di cosa? Come? Ma calmi di cosa? Calmi. No, ma a proposito di maggioranza silenziosa, con il nostro linguaggio, con la nostra pacatezza, siamo la forza tranquilla, come diceva Mitterrand. Senti, e Rom, oggi abbiamo già avuto una grande vittoria sul piano giudiziario. Grande vittoria. Senti, della Rom, del razzismo. Senti Rom davanti al Parlamento, sì. Invece, eh? Senti, ah, Rom, ottimo. Senti, bravo. Rom, senti. Ottimo. è Salvini quello che provoca tanto razzismo contro i Rom, che prima di succedere questa cosa lui ha detto bruciate tutti i Rom. Salvini deve essere giustiziato per quello che ha detto. Salvini deve essere giustiziato. Questa è la maggioranza silenziosa, naturalmente. A parte che Salvini non ha mai detto bruciare Roma. Hanno bisogno di un portavoce, te l'ho detto, sono un po' esagerati alle volte. Un altro dice non si può rubare per sempre. Certo. Però vedi che ogni tanto rubano, ammettono. Ci prendono tutti più per delinquenza, perché nel passato abbiamo. Non si può rubare per sempre. Si deve cambiare la vita. Allora andiamo a Torino, Antonio, vai. Antonio. Pronto? Antonio. Dimmi, Antonio, no, dimmi. Ciao ragazzi. Niente, io ero in macchina e ho sentito Parenzo, appunto, che parlava di oggi della. Sì, della tu sei viva voce, vero? Viva voce? No, no, no, no. Auricolare, no. Sono in macchina, ma non sono in viva voce. Vai, dimmi, dimmi, così? Dimmi, vai, dimmi. Niente, e allora volevo solamente dire che non è solo. Io non ho visto abbracci o che altro su Parenzo. Io ho visto invece un bel gruppo di gente che sì, erano una scolaresca, che lo fischiava, gli urlava contro, e un gruppo di Bologna che gli diceva busoni, busoni. Ora, io sono di Bologna, so cosa vuol dire, e lo urlavano così. Quindi, non, ci, Parenzo, non ci risulta, favore, non ci risulta. Favore, non ci risulta, non ti risulta, non ti risulta, perché non lo vuoi dire in radio. Ma di la verità, di le cose come sono state. Ma perché dovrebbe per essere stato fischiato? Non ho capito. Non lo so, però l'hanno fischiato. Evidentemente era la maggioranza silenziosa che non era più. Amo queste diffamazioni fatte. Dove sarebbe avvenuto questo? No, no, no, a Torino, alla fiera del libro, che non è una diffamazione. Vabbè, ragazzi, non ce ne frega, non ce ne frega nulla. In realtà. Sì, vabbè, non ce ne dove? Che la gente lo sappia. Ma dove, coglione, dove? Roberto da Verona, vai Roberto. Dimmi. Pronto, Roberto. Buonasera. Dimmi, pronto, dimmi. Buonasera. Vai. Dunque, io volevo farmi una domanda sul signor Fusaro, ma prima del signor Fusaro volevo esprimere la mia solidarietà al grande Mario Borghezio. Sì. Perché ho avuto la fortuna anche di conoscerlo personalmente. Vabbè, adesso qui non è che è l'ufficio solidarietà a Borghezio, non ce ne frega nulla. La signora Rom che dice a Salvini che deve bruciare, quella lì non va condannata, vero? Ma non lo so, la identificheranno forse, non lo so, chi se ne frega. Veniamo al signor Fusaro, ma questo signor Fusaro da dove ma che ne so, è un filosofo, uno scrittore che viene raccomandato da chi? Ma non lo so, viene ma le cose che dice, voi le capite? No, io non capisco una mazza, solo Parenzo le capisce, la gente normale non le capisce. No, sarebbe bene che ce le spiegasse anche a noi. No, Davide le capisce perché è appassionato di queste cose qua, ma non si capisce, non si capisce una sega. Non l'ho mai capito una volta. Ma sono le super cazzole di Fusaro, è stupendo, io lo trovo meraviglioso, le super, si fa invitare in televisione per dire delle super cazzole pazzesche sulla globalizzazione. No, lui parla forbito, ma non è che dice super cazzo. Che parla forbito può anche dovrebbe mettere dei contenuti dentro questo linguaggio. Vabbè, Roberto, ciao. Olga da Parma, vai Olga. Io adesso mi dico che c'ha azzecco qui con tutti i Rom, eccetera. Che non la ti mia... preoccupare, dimmi. Allora, ieri c'era Briatore, allora sì, vi racconto questa cosa. È stato il mio insegnante di sci negli anni 70, sul famoso paesino San Giacomo di Roburent. Vabbè, allora? E no, niente, mi veniva da ridere perché dico, effettivamente quest'uomo che è stato, adesso è ricchissimo, no? Vabbè, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Dal basso. Invece no, a me me ne frega, perché prima di tutto... Te lo sei fatto? Ma avevo 5 anni. Ah, per ma favore, che ne so io che avevi 5 anni? Per favore. Ma che ne so che avevi 5 anni? Scusami. Parenzo, aiutami per cortesia. Ma non lo so. Io so quello che lo sei. Ma che ne so? Ma non mi hai... Appello a te, mi appello. Perché scusami, Olga, non mi hai detto. Olga, noi rispondiamo, noi della maggioranza rispondiamo con questa delicatezza e questa. Quindi non ti preoccupare, lui è così. No, ma non ho capito che cosa vuoi, però. Olga, oltre a dirci che Briatore è stato un maestro di sci, ma no, non dunque niente, ci vuoi raccontare questa cosa qua? No, voglio dire che lui che vuoi dire? Faceva se mi lasci parlare, dimmi, dai, è difficilissimo. Stavo dicendo che il discorso è stato difficilissimo perché io ieri sentivo lui che diceva partire dal nulla, no? Partire dal nulla. Invece? Ed è vero, è proprio partito dal nulla. E allora? Cioè, lo sappiamo, dunque? Come lo sapete? Non l'avete assolutamente detto che è partito dal nulla. Vabbè, arrivederci. Ciro da Salerno, ci ha rotto i coglioni. Ciro da Salerno, vai. Parenzo, dimmi. Buonasera. Dimmi, poi dimmi. Sono Ciro di Eboli, Salerno. Sì. Io lavoro a Potenza in Basilicata, in ospedale. Sì. Per riferirvi a voi, a quello che avete detto prima, Cruciac è stato condannato a 50.000 euro da diffamazione. da un lato non è perché voglio spezzare la lancia in suo favore, ma chi? E ognuno ma chi? Ha di ma quello chi? Che deve dire della Yang che c'è avuto la è molto spiego. Io ieri io lavoro in ospedale, me ne stavo uscendo a caso, sono andato dal turno. Ho incontrato senti, una roba fai, con fai, una fai, fatti meno eroina, meno cocaina, meno alcol prima di parlare. Sì, vai, io ho qualche spinello, aspetta, aspetta. Fermo, sta zitto un attimo, sta zitto. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Ciao, ciao, Ricchione. La zanzara. Ma buonasera, buonasera, miei piccoli schifosini. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vi seguo perché voglio sapere tutti questi termini sessuali che possono aiutare la convivenza. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Pronto! Sei Asmodeo, sei. Ragazzi, a proposito di Asmodeo, ieri seguivo le Iene e c'è stato questo servizio incredibile su questo. Adesso praticamente si è fatto l'operazione. È un ex uomo, adesso diventata donna, che diversi anni fa in Puglia praticamente prese per il culo facendo pagare un sacco di soldi a dei seguaci. Lei faceva finta, lui all'epoca faceva finta di fare il santone, addirittura c'erano delle visioni, il sangue che scendeva dalla testa. Una specie di Vanna Marchi. Una specie di Vanna Marchi, sì. Addirittura ci sono persone che hanno versato per farsi guarire 30, 40, 50, 60 mila, una cosa incredibile. Solo che nessuno sapeva nulla, o comunque nessuno ha indagato abbastanza, e questa signora, che adesso si fa chiamare Sveva, non mi ricordo come, Sveva Cardinale, è stata per alcune puntate ospite dalla signora la trasmissione sulla Rai della Parodi. Beh, vabbè. Controlla bene, no? Controlla bene quello che succede. Arriva un ospite e controlla pure il passato di quest'ospite, perché questa qua adesso fa l'attrice, questa Sveva Cardinale. Beh, anche adesso, quindi nel passato Paolo Catanzaro. Ho capito, fai l'attrice, ma basta che fai su Google due cose, esce fuori di tutto. Tu dici che l'attrice ex truffatore non può andare alla Rai, questo dici? No, non dico che non può andare alla Rai, no, ma no, per capire, non capisco. Ma non è che non può andare alla Rai, no, viene ho ospitata. Ho queste polemiche, ma voglio capire bene il caso. Scusa, la Parodi, la redazione della Parodi. Prima di invitare una che ha fatto la truffatrice, è sotto indagine, sotto processo per truffa, fai qualche cosa, no? Non è che racconti solamente la parte hanno messo in croce la Perego per molto meno, adesso la Parodi niente, dai, su ragazzi. Sveva Cardinale, senti. Credo di aver dato soltanto e basta. Tu hai tolto soltanto, non hai dato. Mi parli dei soldi che ti sei fatta dare da tutte queste persone? Io non mi sono fatta dare dei soldi. Non ti sei fatta dare dei soldi? No. Ti rendi conto di quello che hai fatto a queste persone? Io non ho fatto nulla a queste persone. Il sangue dalla testa ti scendeva davvero? Un'esperienza di cui non voglio parlare. Poi dopo la puntata delle Iene questa tizia, questa Sveva Cardinale, già Paolo Catanzaro, si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. C'è uno che dice gli ho dato oltre 500.000 euro. Sbagliano pure questi a dare dei soldi, per carità. Quanti soldi gli hai dato? Oltre 500.000 euro, 170.000 euro, 140, 160. Bene ragazzi, iniziamo qui una rubrica Buccinasco Italia. Prima puntata, vi facciamo riascoltare quello che abbiamo mandato in onda ieri. Il boss Rocco Papalia, 66 anni, condannato a oltre 120 anni di galera. Chiamiamo a casa, ci risponde la moglie, poi ci passano direttamente lui. La cosa incredibile è che dopo 25 anni questo è libero. È andato alla comunione di una delle nipoti, i giornalisti, i fotografi lo hanno circondato. Lui ha detto cani. Pronto? Sì? Buonasera, signora Adriana? Sì? Salve, buonasera, qui Radio 24, salve. Buongiorno, mi dica. Buonasera, volevo capire perché, che cosa è successo l'altro giorno con i giornalisti? Perché, lei chi è, scusi? No. Radio 24? Radio 24, sì. Buonasera. Parenzo, buonasera. Un attimo allora, sì. Aspetti un attimo. No, scusi. Radio 24, cosa è successo con i giornalisti l'altro giorno? Parla. Pronto? Sì, ecco. Buonasera, con chi parlo? Sono Rocco Papalia. Ah, signor Rocco, buonasera. Oh, buonasera. Papalia. Buonasera, che è successo l'altro giorno con i giornalisti? Che è successo con i giornalisti l'altro giorno? No, niente, è successo che, mi scusa l'espressione, sono rompe... Se rompe i coglioni, dice lei, no? Ecco. Ma bravo, perché non è che vedono, è già da 10 giorni che sono a casa, sempre da qui uno non può mettere testa fuori. No. Per fotografare che viene per bambini, non bambini. Beh, è una cosa schifosa. Comunque. No, però, signor Rocco, scusi, c'era anche curiosità, no? Lei è uscito dal carcere, è normale che i giornalisti vadano lì a. Certo. Sì, ma vabbè, è normale, ma è normale che qui che è normale. Io glielo ho detto, senti, se io ho commesso qualcosa. Sì, l'ho pagata. Sì. Adesso voglio lasciarmi stare a godermi la vita, quella è questo che mi è rimasto. Ma lei ha detto anche siete dei cani a un certo punto. Ma sai quando uno ti prova, quando ti dice va via, che sono poi in una certa giornata, uno a un certo punto per dare pazienza, no? No, però scusi, signor Rocco, io capisco che lei no, è stato in carcere, adesso è uscito, per carità, in sorveglianza, quello che vuole. Però lì andavano lì a fare le foto, lei non voleva rotture di scatole proprio intorno a sé. Certo, non vuole, basta quello che ho avuto. Quello che ho passato. Quanti anni di galera ha fatto lei in tutto? Perché lei non lo sa quanti ne ha fatti. No, non lo so quanti ne ho fatti. 26. Quanti ne ha fatti? 25, eh? 25, 26, quanti ne ha fatti? Ne ho fatto 25, 26, adesso non lo so di preciso. Ma come non lo sa di preciso? Vabbè, ma saprà. Non ho niente da dire, neanche a lei, ormai, scusa un attimo, prego solo di lasciarmi in pace. No, solo... quanti anni di galera ha fatto? Questo ho si fatto può dire? 25, basta. Io la cosa che voglio dire è questa, ci può dire una sola cosa, che l'andrangheta fa schifo? Eh sì, questo va detto. Allora, Riccardo dalla provincia di Lucca, vai. Riccardo, eccomi qua, salve a tutti, la Zanzara. Chi è Riccardo? Chi è? È Riccardo Corredi, sono io, colui che ha inventato il materasso vegano. Sì, allora le istruzioni sono queste: Riccardo Corredi dalla provincia di Lucca, colui che ha inventato il materasso vegano. Devi togliere questo cazzo di viva voce o il wifi. Sì, va bene, già fatto, tolto tutto, sei contento, ok? Eccomi, vai. Ah, tu sei il genio che ha inventato il materasso vegano? Ma io non mi sento tanto un genio, l'anno prossimo dopo 40 anni di attività ho sempre fatto delle cose per il popolo, naturalmente il pubblico ha bisogno di andare a dormire in un prodotto italiano. Vabbè Riccardo, adesso non è che devi fare pubblicità qua, non è quello il punto. No, ho capito, ma tu pigli per il culo i vegani, ma che stai a dire? Cioè, è una no, presa io per... non prendo, allora... È una presa per il culo bella dei vegani, ma infatti sono stupidi loro che ci cascano. Materasso vegano, ma che vuol dire materasso vegano, Riccardo? Te lo spiego, il materasso vegano vuol dire che oggigiorno chi è che soffre tanto problemi di allergia? Devi andare a riposare indipendentemente da come tu la ma pensi. Che vuol dire che col veganesimo che c'entra con vegano che... vegano vuol dire che è un materasso sano naturale, chi ha problemi d'allergia si deve tutelare anche ma non c'entra niente l'allergia con i vegani. Tu stai dicendo materasso vegano significa che non c'è, che non viene da nessuna produzione animale. Che ne sai? Ci sono, esatto, delle piume, ci, esatto, sono delle piume dentro. Noi rispettiamo gli animali, l'ambiente, e abbiamo fatto un materasso più sano possibile. Ma che più sano? Sicuramente ci saranno dei prodotti che vengono da lavorazione animale o da qualcosa del genere. Assolutamente no, assolutamente no. Senti, ma come fa lo slogan, Riccardo? Come fa lo slogan? Come fa lo slogan? Lo slogan è là, la pubblicità che fai del materasso vegano, sta buffonata tremenda, come fa? Non è, allora vedi, non è una buffonata. Ma dai, sto scherzando, cosa... su, dai. No, non è una cosa molto seria. Ma devi provarmi, devi provarmi che non c'è nulla di animale là in questo materasso, certo, vedremo, vedremo. Vabbè, certo, come fa la pubblicità, come fa? Come fa? Che io sono lì con Pasqualina, sai chi è Pasqualina? Chi è Pasqualina? La mia caprettina, è la mia caprettina che mangiava con me l'insalatina. E allora? E naturalmente, e allora anche lei, noi rispettiamo gli animali e rispettiamo, sì, le persone che vogliono dormire sano. Materasso, raga, ma non vuol dire niente dormire sano e naturale, dai, su, ma che vuol dire? Non vuol dire, non vuol dire niente. Vabbè, sai, ognuno la può pensare veramente. Materasso come vegano, vuole. Vabbè, ciao amico mio, Carlo da Roma, vai, Carlo. Ciao. Carlo. Carlo. Dimmi Carlo, dimmi. Oh. Carlo Carlone, va a vedere su internet chi so, ma quando mo manni il tecnico per sistemare il bagno? Io il bagno? Ma che vuol dire? Detto, mi hai detto che mi mandavi il tecnico che mi sistemava il bagno idraulico. Ma non va lo so. Va a vedere su internet chi so, va a vedere su internet. Carlo, aspetta, chi sei? Capito? Carlo, aspetta, aspetta, aspetta un attimo, fermo lì che ti richiamo, fermo, no, che ti richiamo. Volevo sapere dove squirti, dai, dai, vai, vai, vai. Aspetta, aspetta. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top, siamo il top, siamo il top! Ma va su! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Scopri la finanza digitale. Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La Zanzara. Brucia, ma niente niente fosse pure ricchio uno. Mentre riportavo a casa la mia nonna, mi fa... Ma che sta ascoltando alla radio? No, niente, nonna, roba e non ti garba. No, invece chiacchierano, a me quelli che chiacchierano mi garbano. No, ma questi sono volgari, nonna, lascia perdere. Ma che è, la Zanzara? Beh, amico mio, siamo al top. Parenzo, due punti. Le donne si corteggiano, si invitano a cena e poi si schienano. Vai David, anche la maggioranza silenziosa deve parlare chiaro. Allora, caro David, leggo sul quotidiano. Non ho mai detto nulla del genere. In realtà ho detto si schierano, nel senso nella dopo, loro bellezza del firmamento. Dopo te lo faccio ascoltare bene, perché questa storia ha suscitato un grande interesse. Ho capito, ma lì è la corte. No, ma è la realtà. La realtà. La realtà. La hai fatto. Detto io corteggio le donne, le porto a cena, le porto a teatro, e poi anche volgarmente l'hai detto, e poi le schieno. No, no, ma hai detto impossibile. Tant'è che l'Accademia della Crusca sta indagando su questo nuovo modo di dire, schienare le donne. No, schienare. Ma guarda che è impossibile. Per molti trattasi in realtà della classica pecorina. Cioè, la classica posizione della pecorina. Dottore, appellitivo con famiglia Agnelli Tolino. Non palla polche lì, Alle donne devono essere regalati fiori, vanno portate a teatro, vanno corteggiate e dopo si schierano. Parenzo, quando vuoi. Questa vuole essere schienata, questa vuole essere schienata, che chiami questa trasmissione, mi sono perso il numero di telefono, che chiami questa trasmissione, vuole essere schienata, basta, dal dottor Parenzo, basta. Che chiami, allora, sul quotidiano Libero leggo, la tecnologia è responsabile, Libero. Ah, un giornale satirico, ottimo. La tecnologia è responsabile dei disturbi sessuali di un adolescente su quattro, una nuova e preoccupante ricerca rivela che, ma che cazzo ne so, una nuova preoccupante ricerca sostiene che un adolescente su quattro, siccome c'è la tecnologia, ha disturbi sessuali. I padri non spiegano più il sesso ai figli. Ecco, L'87% va sui siti porno tra i 12 e i 14 anni. Lì si svezzano certamente, ma si intimoriscono dalle dimensioni dei loro genitali ancora in sviluppo davanti questo all'immagine virile. Libero, sì, no, una ricerca. Dimensioni dei loro genitali ancora in sviluppo davanti all'immagine virile del pornostar superdotato che copula senza sosta. Il 26% soffre di disfunzioni erettili di tipo psicologico e le affrontano non con l'andrologo, ma con le pillole illegali comprate online, quelle che ho io ogni tanto. Io ogni tanto ho delle pillolette che mi danno dalla Spagna. Ma le ecco, prendi? Eccole qua. Beh, ogni tanto una pillolina non fa male. Ma perché, ma perché non ce la fai più da solo? Le famose erbe di Afrodite. Ma perché non ce la fai più eccole da solo? E che cos'è? Devo dirti la verità, funziona da paura, caro David. Funziona. No, ma non ho capito, ma perché non ce la fai più da solo? La pilloletta. La pilloletta. Non ma no, da ma solo. Per dare un po' di. No, per mettere un po' di. No. Bisogna salutare però Ferrara 56. Sì, Ferrara 56, sì. Tassista di Roma. Romano che in questo momento sta portando il dottor Paolo Ruffini. Sì, sì. Dottor sì. Paolo Ruffini. E la ottima del Bufalo, spero anche. La signora del Bufalo, spero. No, che sia. Credo che sia da solo, Paolo. Va bene, eravamo con Carlo da Roma, che se non sbaglio è quello fascista, super fascista, giusto? Carlo? Carlo? Oh, eccomi. Che sei il fascista tu, vero? No, io sono fascista, già te l'ho detto l'altra volta. Ma come no? Sono di destra, ma non sono fascista come dici tu. Ma come no? Ma l'hai detto un sacco di volte che sei ma fascista. Ma lascia perdere, non di stronzate. Io ti ho detto sono di destra, molto di destra. Perché ha visto che c'era la condanna di Borghezio per quello. Sì, ti ho detto, cosa inutile in parlare. C'hai paura perché c'è stata una condanna importante. Guarda che te vengo a prendere a casa a Milano, già prendo a Parenzo, poi mandami giù il cesso, che mi sei rotto il cesso, viene Parenzo, basta con guarda quello si ripara. Tanto loro si capiscono, Francesi si capiscono. Stai attento perché hanno appena condannato Borghezio. Stai attento. Ma se quella che ti chiama, che ci vuole andare, e poi squirta, te che fai? Io te lo dico Ma quello saranno affari suoi, ma saranno affari suoi o no? Ma come sono affari suoi? E dice che papà interviene la Filippina, poi che fa? Mentre sta là, quella squirta, ah no, signore, no, signore, padrone, no, io non squirtare. Ma che cazzo di telefono a fare? Io voglio dire una cosa, Carlo, ma tu sei super. Ma tu, ma io non ho capito. Carlo, sì. Carlo, sì. Poveretto, Carlo, dice poveretto. Poveretto, no, dico poveretto perché è una persona che non ha neanche una vita sessuale normale. Ma la vita no, perché il camionista ce la porta via la vita sessuale normale. Carlo, è il classico. Andrei a puttane, dai. No? Ma per quello c'è tornato, mo c'ho 60 anni ancora. Vedi? Perché a 60 anni non si va più a puttane, non ho capito. A 60 ce va più, ce se va, però ce ne va, però adesso non mi piace. A me poi è un classico. A me piace quella dai 35 in su, sono tutte ragazzine quelle che trovo. Ma che tutte ragazzine? Ma c'è un sacco di 20 anni, 25, gli devi chiedere la carta d'identità. Ma che sta scherzando? Ma scusami un attimo, tu è uno schifoso. Ma quanto sei nazista tu? Quanto sei nazista? Dimmelo. Ma io non sono nazista. Ma come no? Ma perché devi mettere parole in bocca? Ma l'hai detto mille volte, mo te ritrovo. Hai paura? Ma non sono nazista. Te la sta fa sotto, te la stai facendo sotto. Hai paura? Sono della destra, molto destra, non moderata, molto destra, molto. Ma tu volevi destra. Bruciare i Rom, volevi bruciare i Rom. Ma che sei a dire? Io ti ho detto quando è successo, fanno i casini, ti ho detto, fanno molto casini, bruciano i rame, fanno quando passi lì sulla corda unale quelli da Ciampino lì fanno paura perché hanno condannato Borghezio per razzismo. Capito? Giustamente c'hai paura, hai paura. Ma c'hai paura di che? Ma perché? Perché siccome hanno appena condannato Borghezio per razzismo, tu giustamente te la fai sotto e c'hai paura. Ma se condannassero Borghezio, ma perché tu sei uno schifoso razzista che fa tanto il ganzo quando splende il sole. Quando, ma perché? Perché mi stai istigando? Ma perché sei così stupido? Mi stai istigando? Perché sei un po' un coniglio, sei un po' un coniglietto. Perché mi stai istigando? Sei un po' un coniglietto adesso. No, non fai so, tanto il figo, il duce. Ma che vuol dire? Il duce è Mussolini, che cazzo vuol dire? Io non so nazista. Hai sempre detto il duce. Il duce è un'altra cosa. Stupidi, cretini, stupidi. Hai sempre detto il duce, il duce, il duce. Il duce è un'altra cosa. Il Duce Lanza Coppa, mi piaceva Mussolini, Movimento Sociale. A te ti piace Mussolini, sei mussoliniano, sei mussoliniano. Perciò qual è il problema essere mussoliniano, essere razzisti? Diglielo a Parenzo, diglielo a Parenzo. Il problema è quello che c'è appena stato, per fortuna. Sto cretino, già te lo dico 10 volte, inutile, non ci riesci a mettere le parole in bocca. Subita, creatura. Subita, creatura, zitto. Ma che hai chiamato a fare oggi? Oggi che cosa hai chiamato a fare? Spiegami. Niente, volevo sapere una cosa. Visto niente, ieri è una persona sola. Esatto, zitto, cretino. È una visto persona ieri, sola. Visto che ieri... Che ieri stava a parlare figlia di Ornella Muti. Ma come si vive da stupido? Scusa, che dice che colpa. Come è uno stupido? Mi fai capire come vive uno stupido? Mia. Ma perché? Ma perché? Vabbè, spiegami, dai, spiegami, dai. Non ci volevo sapere, visto che lei si masturbava con lo spazzolino, ma non è che c'ha la fica anche i denti quella? Che battuta stupida che fai, no, caro. E che battuta, visto che si smasturbava con lo spazzolino. Vabbè, ma lei l'ha detto in maniera soave, in maniera anche in maniera anche poetica. No, non è volta, che film, c'è la figa con i denti. Qualcosa che diceva che c'era una figa con i denti. Mamma mia, oh, che battutona, oh. Ma voglio capire questo. Come si vive, mamma visto quello mia, non devi capire, sei stupido, come non puoi capire. Come fai? Vai a capire. Dove sta andando il tuo camion? Dove sta andando il tuo camion oggi? Come vive uno stupido? Dove sto? Sto quasi a Belluno, mi sono fermato all'area del servizio, basta, mi sono tutti i coglioni. Ecco, vita. Bravo, allora guarda, mettiti sul ciglio della strada e togli il freno a mano, non si lamenta nessuno. No, mettete te. Mettiti sul ciglio della strada. Guarda, se io sapessi che tu prendi la macchina, sì. Io tanto sono a Roma, no? Sì. Tu sai, se io sapessi che tu prendi la macchina, io lo sai che te ce farei con qua? Te monterei sopra, poi te ripasserei sopra, poi scendo, guarda, guardo come ma non è bello stai, questo, non è bello, stai. Non è bello. Aspetta, fammi finire. Se vedo che ti sei fatto uno sgraffio, mi incazzerei perché te devi mettere tanta di quella paura senza farti uno sgraffio. Però te devi mettere tanta sì, di però voglio paura. Dire, Carlo. Io quella strada di Belluno che tu stai percorrendo, la percorro ogni tanto quando vado a Cortina, un posto a nel Cortina. Quale a te manco ma guarda ti fanno entrare. Il cartello di Belluno c'è sta proprio scritto: Parenzo, vietato. No, benvenuto. Scusa, io, no, benvenuto io non ho capito una cosa, ma là nella piazzola dove ti sei fermato, nell'area di servizio. Dire, guarda, quanti tanti colleghi che ti dicono che ci stanno. Sì, è vero, ci stanno, però ti devi andare a cercare te. Se vai a Padova, al paese del nano, là, sì. Lì devi andare alla zona industriale, allora lì trovi mignotte. Se ci vai, che fa tutto questo. Va grazie al cazzo, lavoro tu sempre nel Veneto, io sto solo qua. Io sono tutto. Nel Veneto. Io sono Veneto e Triveneto. Ma ti fanno entrare in Veneto e Triveneto? Perché? Perché io gli dico Salvini, c'ho scritto davanti Forza Salvini, cugini di Salvini, amico di Salvini, c'ho tutto scritto davanti, capito il camion? E il camion tutto, così, tutto così? Sì, tutto scritto di Salvini, io c'ho solo Salvini qua. Pensate. Ciao, Carlo. Lasciati uno Parenzo e alla defecazio non ci penso. Cruciani, la moglie di Macron è un cesso. La Zanzara. Leghisti ignoranti, andate a zappare i campi. Borghezio, paga, coglione, paga. Borghezio poverino deve anche vendere casa perché è stato condannato che ha offeso una negra. Questo è il punto, no? Adesso la vittima è lui che doveva poter dire le peggio cose di chi cazzo gli pare a lui. Paga grassone, paga e vai per strada così ti rendi conto, cretino. Paga negra, povero rom italiano, paga. Sentimenti anti-Borghezio qui, incredibile caro Parenzo, io direi di chiamarlo Marione, chissà dov'è, chiediamo. Marione, mi dicono che sia di ritorno dalla Francia come al solito, di ritorno da terra straniera. Sì, pronto. Mario? Chi parla? Sono Cruciani, come stai? E Parenzo. Siamo qua, che un po' avevo ragione a avere timore. In che senso, scusami? A chi? Hai sentito la botta che mi hanno dato? Eh sì, certo, 50.000, amico mio. 50 più spese legali. E cioè in tutto quanto devi cacciare? Ma adesso non so che cosa chiederà questo qui, ma come minimo chiederà 6 o 7 milioni. Però c'è l'appello. C'è l'appello, però. Io sinceramente pensavo peggio, e loro hanno chiesto almeno 100. Dice, non abbiamo voluto calcare la mano, chiediamo almeno 100. Oggi tu sei stato condannato a 50.000 più spese legali. Sì, più 1.000 di condanna penale. Ma questi soldi li devi cacciare subito o no? No, per fortuna non li hanno concesso la provvisoria esecutorietà, per cui c'è ancora l'appello. Però Parenzo però. Esulta, Parenzo esulta. No, dico, dico che alla fine se il giudice ha accertato che c'è stato razzismo, c'è una legge che prevede che il razzismo... No, ecco, è quello che devi considerare, Parenzo. Mi hanno assolto dal razzismo, è solo per diffamazione. Beh no, diffamazione aggravata, da discriminazione razziale. Da odio razziale. No, non c'è. Ma come no? Condannato questo per aggravata da discriminazione razziale. Ah, ecco, no, io allora questo non l'avevo visto. Ma come non l'avevi visto? La sentenza è contro di te, la sentenza, scusami. Non l'ho vista perché eravamo al voto, però il problema è politico, perché questa è un'azione politica contro di me. Perché dico politica? Addirittura, perché cioè la magistratura fa un'azione politica contro di te? No, lasciami parlare. In Italia 6 o 7 politici hanno preso di me la chiesa con giudizi impietosi, fra cui alcuni molto pesanti. Io non ho usato una sola parola offensiva, non c'è un solo mezzo insulto. E sono l'unico, gli altri sono stati tutti coperti dall'immunità, perché il PD ha appoggiato... Cioè stai parlando di Calderoli però, del tuo no, compagno di... Io sto parlando di esponenti di vari... Ma è soprattutto Calderoli, ha dato dell'orango ed è stato diciamo... Per esempio... Su questo ha ragione Borghezio. Ecco, ora invece... Cioè, tu stai dicendo Calderoli peggio... No, al Parlamento Europeo il PD ha cambiato tono, e quindi è ad persona, gli altri li hanno salvati. A me mi ha lasciato nella bagna. Vero. Naturalmente la Chienze c'ha il dente avvelenato e se l'è presa con me, che sono l'unico che è rimasto nella rete. Per cui tu stai dicendo il PD ha salvato Calderoli al Senato e invece mi ha punito il Borghezio, lo sporco esatto. Borghezio al Parlamento Europeo, così intendi? Questo è il concetto è questo. Però e su questo ha ragione. Hai visto anche la mia dichiarazione, chi la fa l'aspetti. Siccome all'attacco, chiedo, sempre all'attacco! È chiaro, ma sempre, più che mai, adesso sono libero di parlare. L'attacco politico, cioè si aspettino ogni possibile immaginabile controreazione. Che controreazione devi fare? Che fai? La contraria? Io, che dico, fai? Io impegnato nella politica europea, non rispondevo agli appelli che mi facevano gli azionisti della Banca Etruria di andare sotto casa della signora Boschi, eccetera. Ad ora in poi mi libero da qualunque impegno. Puoi andare anche sotto casa della Boschi a rompere i coglioni sulla questione della Banca Etruria? Ma questo è il minimo che farò. Me ne inventerò uno al giorno. Questi qui pensavano di aver calpestato il tubo della lavatrice nella foresta, e invece era un crotalo. Cioè, tu in questo momento stai promettendo che diventerai una bestia feroce, questo è il punto. Io non è che prometto, lo sono già diventato, perché mi hanno fatto una carognata, un'infamata delle peggiori. Ma quando mai nella giurisprudenza italiana per una diffamazione generica si danno 50.000... Questa chiede 100.000 di danno della ringa difensiva. Si è detto che lei, la sua carriera politica è stata rovinata da me. Beh, questo no, questo non è vero. Tu ti penti di quello che hai detto? Cioè, nel senso che lei ha tolto il posto a un italiano? Io se ritorniamo all'epoca, ripeterei le stesse cose, perché all'epoca la pensavo esattamente così. Ho capito, ma hai detto delle altre cose pure. No, io ho detto che era inadeguata. La cosa peggiore che ho detto è che era inadeguata. No, beh, hai detto che ha rubato il posto a un italiano. Hai detto che i negri sono diversi. No, non ho detto mai che i negri sono diversi. Quello è razzismo. Mai detto che. Beh, no, ma ne hai detto, dai. No, ho detto solo che la civiltà europea è superiore a quella africana. Civiltà, non razza. Tu hai detto gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra. Sì, diversa non significa inferiore. No, poi hai detto che anche fa il medico, gli abbiamo dato un posto in un ASL che è stato tolto a qualche medico italiano. Quello la Lega lo dice di 500 comizi. Comunque, la realtà è che come fai a dare... Ce l'hai questi soldi? No, io al momento non ce li ho. E come farai? No, ma indipendentemente da quello, io è chiaro che se vengo obbligato a pagare mi venderò quello che ho e pagherò. Cioè, che devi vendere la casa? Quanto vale casa tua? Purtroppo a Torino la Roma non vale più niente. E dunque quanto può valere casa tua? Io l'ho conosciuta, ci sono stato a casa tua. Basterà sì e no per pagare. E come fai dopo senza casa? Do in affitto, che vuoi dire. Ma si vuole fare ricca secondo te? Non lo so, io non entro, non esprimo giudizi, non voglio peggiorare la mia situazione. Va bene. Ciao, che è già pesante. Ciao, ciao, ciao. Ma signor Borghezio, l'ho sentito un po' provato, però. Ma che? Ha detto che è un crotalo. Sì, beh, però provato, dai, prova tu a vedere. Tirasse fuori i coglioni, però uno non è che si può fare mettere i piedi in testa così, ma eh. Ma se deve pagare 50.000 euro. Ha detto due cazzate all'epoca, dai, su, non è che uno paga 50.000 euro per aver detto due cazzate, dai, ma su. Ma è stato condannato. Ma ne ha dette di peggiori, di quelle là, la civiltà. Ma cosa c'entra? Dai, su. Ma non c'entra niente. Giuseppe, dai, provincia di Chieti, dai, su. Ma dai, su, proprio un bel niente. Dai, Giuseppe, dai, dimmi, Giuseppe, dimmi. Buonasera, dottor Cruciani. Oddio, è arrivato Giuseppe. Ah, l'imbecille. Il cretino, dai. Allora io chiudo il telefono. Dimmi, Giuseppe, dimmi. No, chiudo il telefono. Io sono serio. Sì, perché dimmi. Mi devi insultare prima che passi. Dimmi, dai, passi. Forza, dai, dimmi. Allora, io volevo parlare di clandestini, però, ho sentito la telefonata che ha fatto a quel mafioso, no? Per quanto l'ha pagato, Giuseppe, non si sente un cazzo, adesso ti richiamiamo, dai. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. Pronto, ho sentito l'Accademia della Crusca, dice che nella prossima edizione del dizionario aboliranno la parola scopare per sostituirla con il verbo schienare, CFR confronta Parenzo virgola Zanzara 2017. Ragazzi, siamo al top, ciao. Premetto che faccio parte della maggioranza silenziosa. Sono uscito a cena con la mia ragazza, l'ho portata al cinema, poi siamo andati a casa, dopo un paio di bottiglie di vino, l'ho schienata! Parenzo, l'ho schienata! Ma cosa sta succedendo a Parenzo? Schienare le donne? E vuole intervistare soltanto la gente ricca perché i poveri gli mettono tristezza? Caga in diretta durante le interviste con Briatore. Cruciani, lo stai contagiando. Avanti tutta con la minoranza rumorosa. Bene, dopo questa carrellata fantastica. No, nulla di tutto questo, queste persone verranno denunciate uno a uno perché la maggioranza silenziosa che io qui rappresento. Sì, alza un po' la voce però, sennò ci fai venire il latte ai coglioni, dai. È cresciuta con il bon ton e quindi l'altro giorno sono dovuto andare ai servizi e quindi per educazione durante l'intervista. No, ma tu va benissimo, cioè no, la parola schienare è una cosa fantastica. No, quella è stata un momento. Un momento di che? Un momento di cosa? Un momento così, di come dire, sai quando c'è il demone che ti prende appunto, dentro, sì, improvvisamente. Che ti sale però in groppa, no, la scimmia no, che no, ti no. sale in groppa. No, non mi ingroppa proprio nessuna scimmia, la scimmia nuda. Sì, però eravamo con Giuseppe dalla provincia di Chieti, dai, ecco. Fammi sentire Giuseppe, dai. Sì, Cruciani, però deve sempre insultare. Però parla bene, parla bene. Basta, parla bene, Giuseppe, parla forte, se no non ti sentiamo. Appena dai. Si inizia, si insulta, va bene. Allora, io dico questo. Volevo parlare di clandestini. Però ho sentito la chiamata che ha fatto al mafioso, no? Sì, Giuseppe, però parla meglio perché ti sentiamo basso. Su, dai, Giuseppe, basso. Dai. Cazzo. Allora, quando gli ha dato al mafioso per fare la telefonata, per far vedere che sei coraggioso, Cruciani? Ma vai a fare in culo, Giuseppe, non abbiamo dato nessun soldo, abbiamo chiamato un numero, ci ha risposto prima la moglie e poi ci ha passato il marito, non dire stronzate. Sì, va bene, ci credo, però mo parliamo di clandestini. Sì, ma che di clandestini. Dimmi, Giuseppe, dimmi. Tu che sei un sociologo affermato. No, non sono sociologo, cretino. L'hai detto tu che eri sociologo, scusa. Dai, Giuseppe, sono sociologo perché in questa trasmissione si diventa inevitabilmente dei sociologi, è una grande palestra universitaria. Bravo Cruciani, bravo. Vabbè, allora Giuseppe, che vuoi dire, dimmi. quando pensi da sociologo, pensi, no, tu pensi che ci sarà. Comunque, questo qui non è semplicemente stupido. Arrivare al giorno 50.000, 100.000 al giorno. Ma cosa? Per far fare la rivoluzione agli italiani? Ma cosa? Di che stai parlando? I clandestini che arrivano, no? Sì. Quanti ne devono arrivare per far fare la rivoluzione agli italiani? Ma perché tu faresti la rivoluzione? Certo. Tu sei uno di quelli che fa la rivoluzione. Allora, il maiale. Ma fammi il piacere, come direbbe Totò, ma fammi il piacere. Giuseppe, dalla provincia di Chieti, aspetta che i clandestini diventino non so quanti per fare la rivoluzione. Tu, dalla provincia di Chieti. Ma perché consegnare i miei figli, i miei nipoti? Sì, a chi? A una marmaglia. È tipo quel maiale che c'è a fianco, no? Questo là, il cocainomane. Ma quello ma cocainomane, a parte che non lo so. Chi sarebbe cocainomane? Tu, quel maiale che sei. Beh, questo che lui ha detto è molto caro, perché non avendo mai fatto uso in vita mia, come tu sai, Cruciani, peraltro, di cocaina, mi sono fatto l'ultima volta una canna, purtroppo soltanto un anno fa, ma insomma, l'ultima, ma ogni tanto ma qualche si canna. Ma vede dagli occhi, io col cocainomane. Lei si capisce dalla voce che è una persona notoria alla Zanzara, ma totalmente disturbato, totalmente finirà appeso a testa in giù quando ma da chi? Gli italiani si totalmente ma è italiano totalmente. Anche lui, imbecille, è italiano anche lui, cretino. Lui non è un italiano, lui no. È meglio che se ne vada dall'Italia. E dove dovrebbe andare? Da qualsiasi parte, gli pago il biglietto per mandarlo in Siberia. Ma tu lo sai che sei un poveraccio, Giuseppe, ti rendi conto che sei un poveraccio? Io una volta, siccome tu chiami una volta al mese in questa radio, sì. Io vorrei che tu ci passassi tua moglie. No, passami tua moglie, passami tua, moglie. se ce l'hai. La moglie si è malata di lui. Secondo me non ce l'hai la moglie. Secondo me non ce l'ho. Ma mia moglie, sai che mi ha detto? Che solo i cretini parlano con Cruciani. Appunto. La dimostrazione, la classica dimostrazione della presenza di un imbecille in questa trasmissione. Aspetta. Vabbè, Cruciani. Va bene. No, senti, volevo chiederti questo prima. Non ci parlo con il maiale. No, volevo chiederti questo. Ma come si vive da stupidi? Guarda, io c'ho il bip, con i maiali non ci parlo. No, ma voglio capire, uno stupido come vive meglio però? Cioè, rispetto a uno intelligente, una persona stupida, secondo me vive meglio. Ti verranno a prendere a ma casa chi? E ti attenderanno. Ma chi? Tu? A tutti le milizie buonissimi. Di Giuseppe, ma non per i coglioni. Sì. Roberto da Roma, vai Roberto. Ciao Parenzo. Dimmi. Ah, Parenzo, vuoi Parenzo? Sì. Che c'è? Ciao Parenzo. Ecco, ma sinceramente la tua voce molto omosessuale, sinceramente mi fa, come dire, prevenire un qualcosa di schienare. Sì, è arrivato il fake, dai, il finto ecco. Gay. No, ti assicuro che sono froscio da 51 anni della mia vita. Guarda, ti preoccupa che sono froscio fino al midollo. Allora, mi dispiace doverla deludere, professore. No, guardi, ma io capisco, perché no, io deludere, ma io schienare. No, aspetta, io Roberto, pratico. Però è interessante, sei veramente checca, Roberto? No, checca, ma insomma, ancora mi vesto in giacca e cravatta, ma comunque. No, ma checca, nel senso, sei omosessuale? Assolutamente sì. Poi sushi. 51 anni? 51 anni, sì. Sì, ma non c'è bisogno di prenderci per il culo, se non no, è vero, no, non è vero. No. No, io Parenzo lo conosco, lo vedo a livello visivo, a livello televisivo. Ti eccita Devo questa dire. Cosa? Ti eccita? Assolutamente sì. Il fattore che anche sia sposato, che abbia avuto figli. Beh, questo per te e è buono, per un omosessuale è buono. Assolutamente, diciamo. Beh, certo, perché è bisessuale. No, bisessuale non risulta essere bisessuale. Questo mi dispiace doverla deludere, ma io pratico soltanto l'eterosessualità, cioè proprio anzi con grande piacere, devo dire. Ma lei si ritrova che comunque questa voce leggermente ambigua, sì, la trova comunque abbastanza imbarazzante sotto questo punto di vista. Imbarazzante veramente è lei, io non sono imbarazzato da niente perché ho ma ti arrapa, non ho capito se ti arrapa Parenzo o no. Assolutamente sì, io lo metterei ovunque. Vabbè, nelle orecchie, questo. Nel deretano. Vabbè, adesso questo è un altro discorso. Adesso no, questo sono valutazioni che lei questo non è un problema. Ma come mai? Perché hai questa fissazione? Dato che comunque lui ha detto testè che ha fatto una canna tipo un anno fa. Quando tu ti fumi una canna, l'ano si tirata. Ma non come credo proprio, non credo, oh, non credo. Voglia. Secondo me secondo me lei è un fake. Prova col popper, vediamo se si dilata il deretano. Vabbè Roberto, ciao, ciao. Secondo ciao. Me lei è un fake. Può essere, può essere. Certo, può essere. Ciao. Viva i Fraci, viva i Fraci. Allora andiamo a Ancona, Paolo, vai, vai. Vai. Eccomi. Prima di tutto vorrei mandare a fare in culo tutta la maggioranza silenziosa e Parenzo anche. Eccoci, benvenuto e grazie per aver chiamato, non ci intimidisce. No, assolutamente, io volevo esprimere la mia vicinanza al grande onorevole Chi? Borghezio. E poi soprattutto vorrei ricordare un grande che non c'è più, il grande Bonanno Gianluca. Beh, ma che c'entra questo, scusa? Vabbè, sono stati dei combattenti, delle persone che non si sono fatte intimidire da persone, hanno combattuto fortemente, hanno portato avanti loro idee. È stato condannato, per fortuna. È stato condannato, pagherà, non pagherà. I razzisti devono... Il razzismo in questo paese è ancora un reato, quindi... Vabbè, allora... Ma non è. Vabbè, oltre a ricordare Bonanno, che fra poco ci sarà un anno dalla sua morte, d'accordo, e a difendere Borghezio perché per la sua condanna, che vuoi dire? Niente. Un cazzo. Era questo il concetto. Vabbè, questo, vai a fare in culo dolcemente. Ciao. Grazie. Allora, ragazzi, io voglio chiamare alcuni centri massaggi. Innanzitutto mandiamo un bel tipo da Zanzara, l'altro giorno quello di Pisa, vai. Tipi da Zanzara, vai. Tipi da Zanzara. Francesco da Pisa, vai. Io e i miei amici dell'università oggi abbiamo capito e abbiamo le prove che la prostituzione illegale penalizza, oltre le prostitute, noi studenti e i lavoratori onesti. Perché oggi hanno chiuso un centro di cinesi dove noi studenti andavamo a divertirci, come sapete, a farci fare sì che pompini. Quelli, ha ragione. Intanto questo qui dell'Università di Pisa, forse il padre gli sequestrerei tutti i viveri, perché voglio dire. Io ho sceso mia madre di macchina per dirvi questa cosa per evitare conseguenze. Che facevi? Pompino, seghetta? Che facevi? Certo, tanto se devo spendere 50 euro massaggio e pompino, invece devo andare al trans, anzi non vado al trans, è una prostituta. Scusi, che non paga le tasse, signor tutto, studente dell'Università di Pisa, ma mi fa nemmeno il massaggio. Si trovi una fidanzata, le offra una pizza, la porti al cinema. Ma magari c'è anche la fidanzata, Francesco. Ma la fidanzata per ora no, per quello ci vado, se no ci andavi uguale, è ancora peggio. Ha ragione Francesco, ragazzi, ma questi ragazzi vanno invogliati a fare queste cose. Delle cinesine, dai, ma è una vanno porcheria. Invogliati questi ragazzi. E questa sarebbe la futura classe dirigente, ma è una porcheria, dai, è una porcheria. Allora, questi ragazzi vanno invogliati a fare queste cose perché sfogano anche un po' di tensione, un po' di rabbia. Meglio questo che le manifestazioni. Ma che sei un meglio questo. Tu stai distruggendo questo paese, tu stai contribuendo a distruggere questo paese. Allora ragazzi, la realtà vera, caro David, che tu ne dica, è che questi centri massaggi cinesi, con i loro prezzi calmierati, col fatto che più o meno, credo, spero, paghino le tasse, sono diventati dei posti da esaltare, da glorificare, da santificare. Sono dei posti dove le persone legalmente possono andare lì, farsi fare un massaggio e poi va bene. È una sorta di prostituzione accettata ormai, di situazione di mignotteria ormai certificata, ormai accettata da chiunque. Cioè, io voglio fare una pubblica. Alcuni di questi li voglio chiamare per ringraziarli. Per ringraziare della straordinaria funzione sociale che hanno. Ma che funzione i centri hanno? Massaggi cinesi dove si praticano anche dove si pratica del sesso, dove sesso orale, masturbazioni. Ma non lo so, ma tu forse ci sei mai andato? Sì, una volta l'ho già raccontato. Ah, già, è vero. Una sola volta tu, l'ho c'è già c'è una cosa che non hai mai provato, tante cose. Perché tu fai una propaganda. La tua si chiama propaganda sessuale. No, cioè che propaganda sessualista. Però senti, io voglio pubblicamente esaltare alcuni di questi luoghi. No, ma sono cioè luoghi, i luoghi di massaggi cinesi, ma ove paghino le tasse. Ove paghino le tasse, sono posti che sono gravissima. La salvezza. È una cosa gravissima. Siccome vogliono rompere i coglioni con le multe per strada, è tutti certo. I paesi c'hanno i cartelli, eccetera. Le persone che hanno pochi euro possono andare un'ora 50 euro, 30 euro, 40 euro. Non abbiamo i bordelli, abbiamo i massaggi cinesi. Farsi i seghini, farsi fare i seghini, qualche pompinetto da qualcuna. Quando ci scappa pure un rapporto completo, non lo so, alcuni hanno magari anche rapporto completo, chiamiamo, dai ragazzi, chiamiamo, cominciamo a chiamare, voglio esaltarli, voglio dire, avete una grande funzione sociale. Pronto? Sì, Asia Top? Sì, giusto, sì. Pronto, buonasera. Buonasera, sei a Piranesi, conosci qua il Piranesi? Talento da lei. Piranesi, sì, Piranesi. Il talento da lei, non me lo talento da lei, venuto qua già? Sì, via Piranesi 33, giusto? Giusto, sì, sì, mezzo alla talenta, un'ora 50. Un'ora 50 euro? Sì, sì, tu vieni, va bene. Sì, ho capito, ma voi fate un servizio straordinario, lo sapete, sì? Tu vieni a parlare, va bene? No, ma è un servizio importante, straordinario. Io ma... non ho capito. No, è un servizio importante per la società, capito? Per pubblicità? No, la società. Per e la anche per la felicità, per qualcuno, però... Ho capito, tu questa parola io non ho capito. Tu vuoi venire a parlare? Okay. Sì, ma che si fa in un'ora? Massaggi, massaggi. Beh, massaggi, però non solo massaggi, spero. Okay, tu vieni, ok, va bene, tu vedi, che te le parlare, capito? Ok. Ma tu fai tutto, dopo, oltre i massaggi, fai tutto? Pronto? Sì, Viale Molise? Sì. Sì, buonasera. Si può venire? Scusa, niente. Tu parlare cosa? No, dico, si può venire stasera? Sì. Sì. Quanto, che prezzi avete? Mezz'ora talina, un'ora 50. Cioè, mezz'ora 50, non ho capito. Mezz'ora talina, un'ora 50. No, scusami, un'ora quanto? Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. La Zanzara. Padania libera, di resto non ce ne frega un cazzo. Ma Filippo com'è? Da Grosseto. Padania libera. Libera. Libera. Subito, ieri. Io da Roma. Puzza. Roma puzza. Ciao la Padania. Solo, sempre, solo la Padania. Se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera. Libertà, libertà, libertà. Non riesco a fermarlo. La Zanzara. Detto con, diciamo, il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Detto con, diciamo, il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Moderati un cazzo. Allora, per chi se l'è perso ieri sera, caro Parenzo, c'è stata una specie di show. Questo era Borghezio, naturalmente, ai suoi tempi migliori, quando tuonava. Quando tuonava contro l'Islam, contro chiunque, non si sente un cazzo. Per favore, appoggia meglio quel cazzo di bocca. Ma mi devono chiamare al fisso. Perché non ce ne frega. Come al fisso? Perché è caduta la linea del fisso. Sì, sì, sì, va bene. Per chi se lo fosse perso, ieri intervento epico di Nike Rivelli, figlia della signora Muti, che ci ha raccontato i suoi metodi di squirt. Tu squirti? Sì, ogni tanto, ma solo da sola. Ma che ci frega? Questo è importante, però, è importantissimo. Cioè, non è mai successo in compagnia. Non ti è mai successo in compagnia? Io praticamente, se mi masturbo con il mio spazzolino elettrico, Con lo spazzolino elettrico? Sì. Ma che roba è? Lo spazzolino elettrico? Allora voi non capite niente. Cioè voi fate grandi uomini e non sapete. Ma io non faccio una donna esternamente 3 minuti 4 con uno spazzolino elettrico. Secondo me lo spazzolino è Oral B. Yeah. Secondo me è Oral B. Ma, sì, ma chi se ne frega? Solo adesso che te l'ho detto. Se tu la prossima volta che vedi a visitare l'Oral B, sì, facci caso che se parla a due tipi di clientela. Pure. Almeno che non hai bisogno di portata d'interno. Io mi piace l'esterno. Sì, 5 minuti tema. Ci mettono, eh? 5 minuti, cioè al massimo 5 minuti vieni? Sì, mamma, ma dico quasi tutte, penso, eh? Sì, almeno tutte le mie amiche. Ha fatto delle statistiche, degli studi, la signora. At the darkest hour never comes in the night. You can sleep with the gun when you're gonna wake up. When you're gonna wake up and fall. I created the sound of madness, wrote the book on pain. Spazzolino elettrico, ovviamente lo lavate, usate la testina solo per voi, non per la bocca, cioè non usate quello degli altri. Beh, vabbè, si può anche usare. Grazie, sì. Grazie. Dopodiché, niente, o da sola la donna, o sono in compagnia dell'uomo, al meglio, hai capito? Sì. E poi? Praticamente, che ne so, se io adesso faccio l'esempio Cruciani. Sì, no? Sì, sì. Io Cruciani, esempio... io mi metto sopra di Cruciani, no? Sì, sì, sì, sì, esempio sopra, ottimo, e di scuola, poi, proprio. E poi uso, sì, o lui mi aiuta a usare il mio RD, sì, a fare dei grandissimi squirting. Allora, Francesco da Olbia, vai Francesco, vai, sì, vai. Sì, eccomi. Ma volevo chiedere a Parenzo se bisogna essere, cioè non si appartiene alla maggioranza silenziosa nel momento in cui si chiama per alla zanzara. No, non ho capito, Francesco, scusami. Non ho capito niente. Ragazzi, mi fate capire stasera, perché sennò mi incazzo. Francesco, sì, alza la voce, dai, forza. Allora, io voglio capire se posso far parte della maggioranza silenziosa pure chiamando alla zanzara. Vabbè, vai a fare in culo. Alberto da Milano, vai. Vai, no. Alberto da Milano, vai, Alberto. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ascolta, ciao. Innanzitutto volevo chiedere se voi pagate meno Parenzo per il fatto che ogni 2x3 parla al cellulare, perché è una roba insopportabile. A me lo dici? No, purtroppo lo paghiamo lo stesso. No, purtroppo. Cioè, voi lo pagate lo stesso? Che cazzo devo fare? Dai, forza. Ma ascolta, Cruciani, questo è un test di valutazione per te, perché io ho una grande stima. Volevo sapere, domanda secca, tu sì, conosci il Rusty Trombone, sì o no? Sì, guarda, lo conosco. Purtroppo è una buffonata questa cosa qua, perché non, è sempre perché una buffonata? È sempre la stessa cosa. L'hanno chiamato Rusty Trombone per differenziarlo da una pratica che non ha bisogno di essere nominata in nessun modo, cioè... Vabbè, niente, volevo solo dirti che a questo punto la mia stima non può che crescere nei tuoi confronti. Vabbè, Marco da Roma, dai, Marco. Viva la fine! Vai, Marco, dimmi. Ciao, ciao a tutti. Dimmi. No, volevo parlare dei parcheggi, perché tutti qua, ogni volta che chiede parcheggi, cambiano discorso. Poche parole. Pronto? Sì, Marco, dimmi. Ah, sì, niente, ormai è una cosa che vedono tutti, parcheggi in tutta Italia. Non ci possiamo fermare, veramente. Quali parcheggi, scusa, non ho i capito. Parcheggi piazzole, parcheggi d'autostrada. Cioè, che succede? Tu fai il camionista? Fai sì, io faccio il camionista. E che succede, scusa? E che succede? Succede che prima... Non ho capito, scusa. Marco? Vabbè, dai, via. Risentiamo Pietro da ieri, vai. Tipi da zanzara, vai. Tipi da zanzara. Pietro, provincia di Vicenza, non vai. Molliamo mai, sì, non molliamo di un centimetro, non molliamo. Altro dimmi, bene. Pietro, dimmi. Pronto, mi sentite? Sì, dimmi. Ah, niente, volevo dire, prima cosa, forza Briatore al 100%. Io è del 92 che lavoro con l'Africa del Nord e lavoro con i musulmani dalla mattina alla sera e degli arabi. Sì. Sono un ammasso di persone, non tutte, ma la maggior parte, di approssimativi e non arrivano mai da nessuna parte. E quindi è inutile che noi stiamo qua a ma fare che i vuol bari. Dire? Con chi lavori? Con chi hai lavorato? No, io ho aziende mie in Tunisia, allora? In Marocco e in Egitto. Allora vi dico che qua vengono fa e fanno quel cazzo che vogliono. Là da loro non possono fare niente perché li mettono in galera. tu per non avere problemi là devi parlare solo di gnocca e di sport. Guai parlare di religione o di politica, ti mettono via. Ti mettono via in tre secondi. Non ho capito, questo è interessante. Tu vai là, puoi parlare solamente di figa e di... E di calcio, di quello che è, non c'entra un cazzo con quello che è la politica e la religione. Sennò questo... ti mettono via. Sono signori che sono laureati alla Sorbonne, vengono qui in Italia, li fanno di tutti i colori, giusto, puttane, mangiano maiale, bevono champagne, ritornano di là e rabbaltano completamente. Poi è vero, è vero, dove l'hai trovato sto ubriacone? È un ubriacone che lavora e fa 2 miliardi all'anno di fatturato, coglione, che non sei altro. Hai aggressivo capito? Anche. Allora, è tu che non sai neanche, tu sai, aggressivo. Sei laureato perché aggressivo hai studiato, patologico. Ma la tua intelligenza, no, non è l'intelligenza patologico. È un'altra cosa. Lei è aggressivo patologico. Tu hai l'intelligenza sotto il culo, sei un chiacchierone che non è capace di accendere e spegnere un'azienda. Parli solo e butti fuori che bagna, coglione. Lei è aggressivo, aggressivo patologico anche. Vieni vicino a me, ti lascio una granata sulla testa. Eccola, una granata. Perché meriti questo? Ma che vuol dire che stanno allora, focus come mangiano come tu che ti caghi addosso, hai capito coglione, che stai rovinando i ragazzi, ci stanno, stai facendo ancora lotta di classe nel 2017 tra fascisti e comunisti che sono passati 70 anni, coglione. Scusami, sei un coglione e se ti vedo ti do anche una granata sulla testa con le mie 5 violenza, con le mie 5 violenza, per cortesia convergere immediatamente della fabbrica di tal Pietro da Vicenza immediatamente. Immediatamente per cortesia. Aspetta, scusami. Pietro, ma le scusate. Le tasse questo qua o no? Va benissimo, no? Ci allora, credo... io sento parlare quel deficiente lì che hai vicino, con scusami il termine. Signore, quello è un deficiente, e anche dalle mie parti, perché io sono di Vicenza, ma lui è di Padova. Aggressivo patologico, quello là, con chi quello aggressivo, questo tu sei un coglione, sì, tu sei dato aggressivo sotto un Pier cavolo Parenzo matto, e stai buttando fuori solo di Zania. Scusami Pietro, ma tu hai degli impiegati, hai degli impiegati musulmani, extracomunitari, islamici, africani? Ho maestranze, italiane, e poi ho maestranze anche musulmane e sono dei bravi ragazzi anche là, come ci sono delle brave donne. Paga le tasse, penso che le paga, so, le tasse. Io anche troppo pago per te, eccola. E non per concetto per me... che lui le paga, tu io non le meriti neanche, io le pago le tasse, 43% di tassazione, cioè io altro che non sei altro del cazzo. Compagni e compagni, per cortesia, convergere dall'Umbria verso Pietro da Vicenza ma e occupare la fabbrica immediatamente. Non hai le parti, sei solo un chiacchierone e basta. Non sei solo un chiacchierone e basta. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Scopri la finanza digitale. Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La zanzara. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with pensate me, se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda. Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella. Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Filippo da Grosseto. Padania libera. Libera. Subito ieri. Libera Roma. Puzza. Roma puzza. Ciolo la Padania. Ciolo sempre ciolo la Padania. Se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera. Libertà, libertà, libertà. Non riesco a fermarlo. Che tempi ragazzi, che tempi con Borghezione. Radio Padania, il peggio di Radio Calabria. Fu Radio Padania che tra l'altro mi dicono che la settimana prossima sparisce. Sparisce, beh, grande giornata di festa, ottimo. Sparisce dalle onde FM. Champagne. Servi di Roma fuori. senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatori di Radio Padania, vai! Di Roma fuori. I delinquenti sono liberi, grazie alle sinistre e ai giudici competenti. Ma dove stiamo andando a finire? Qui ci vuole lanciafiamme! Basta parole! Lanciafiamme! Dalla ruspa al lanciafiamme! Questo governo di camorristi prepara il prelievo dai conti correnti superiori a 5.000 euro, ma non è vero, tra l'altro, senti. A chi ti vuole fermare? Pare ci sia un disegno di legge di questo governo dei camorristi che abbia intenzione di prelevare dai conti correnti nostri sopra i 5.000 euro l'1,75%, che dovrebbe prendere esecutività a settembre. È il progetto che io ho sentito da parte di questo governo di ladri e farabutti. Cioè questo qua ha detto governo di ladri, farabutti e camorristi. A parte la notizia che non è vera. Ladri, camorristi e farabutti. No, ma appunto, ma quella radio andava chiusa prima, ma col decreto del giudice. Ma non è vero, però. niente va chiuso. Ma come niente? Ma cosa deve fare? Uno deve stuprare qualcuno, deve bruciare un rom in trasmissione perché chiuda, ma non ho capito. A un certo punto spunta fuori un leghista gay. Senti. Io sono leghista, sono gay. Sì. Non mi vergogno della mia sessualità, ma io non vorrei mai avere un figlio con il mio compagno, perché i figli ce li hanno le mamme e i papà. Guida il popolo nella tempesta come una madre e un figlio. Allora Cesare da Roma, vai Cesare. Maestro Cruciani, mi senti? Dimmi Cesare, dimmi. Io ti volevo raccontare, una settimana fa sono stato a Bucarest. Sì. E non sono stato per visitare la città, perché è una città di merda, quindi non c'è nulla da visitare a Bucarest. Perché ce la dobbiamo? Sì, perché ci devi rendere nemici anche i romeni? Il governo della Romania. Non hanno nulla. Non hanno nulla. Il turismo sessuale, evidentemente. No, non sono andato a fare il turismo sessuale, sono andato a scopare Parenzo proprio, non il turismo sessuale. C'è bisogno di... Lei è una persona veramente brutta. Ma no. C'è bisogno di andare a Bucarest per scopare, scusami. No, perché avevo un'amica lì, allora? E quindi la sono andata a trovare e lei mi ha fatto conoscere altre amiche. Ti volevo raccontare che sono andato in un palazzo, sì. Questo è tutto documentabile, sì. Che si chiama Hot Angels. Io sono entrato lì all'interno, c'era una signorina che comunque mi accoglieva e mi offriva Hot anche Angels. Un bel tè. Hot Angels. Allora? A un certo punto lei ha schioccato Angeli le mani caldi. E sono entrate 8 signorine in bikini con un cartellino, tipo quando si va al supermercato. Vabbè, e ci stanno le varie marche, le varie cose, sì, con i nomi. Normale. C'è la donna come un prodotto da supermercato. Ma è normale, sì, ma sì, dove sì, vivi? Perché dove le cose vivi? Belle come trattate, dottor come Parenzo, un surgelato. Ma dove vivi? Ma dove vivi? Le cose belle vanno acquistate. Dottor Parenzo, vanno acquistate. Io non ho tempo di la cena, no, e le vai a prendere, aspetti mezz'ora. Perché? Perché, dottor Parenzo? Perché? Calma, c'erano tutti questi nomi, mi faccia finire di parlare. A un certo punto ho detto anche Beck, e si sono girate tutte 8, perché logicamente volevo vedere la mercanzia per bene, anche il lato beer. E a un certo punto io lato scelgo, B, cioè, che lato beer, lato beer ho detto, lato B ci vuole, perché per me lato B è molto importante, perché noi facciamo parte della maggioranza chiazzosa, non della maggioranza silenziosa. Allora, questo qua è Hot Angels, sì, sto vedendo. Hot Angels, tutto documentato. E ne ho scelte due, Jessica e Nicole, la bionda e la moda, come le veline, stupendo, un massaggio a quattro mani, tutto meraviglioso, sì. Anche supplemento, perché comunque alla fine ne valeva costo? La pena. Costo, ma erano 30 euro a persona, quindi ho pagato, erano 60, poca roba, poca roba, dai. Sì, 20 euro, comunque altissimo livello. Noi ci siamo rotti le palle delle scene di queste italiane che rompono le palle, alla fine se la tirano. Perché? Andate in Romania, a Bucarest, meraviglioso. Ma perché proprio Bucarest? Non ho capito. Cioè, che cosa ha di speciale? Ma perché avevo lì una mia amica. Io ma ho capito, tutta ma Europa, che cosa ha di speciale Bucarest adesso? Non è che uno va apposta a Bucarest. Il lato B. Ma lato no, B ma quello lo trovi ovunque, dai. Il lato B più bello dell'est. Hanno quella passione, quella dolcezza, vabbè, quella gentilezza che le italiane non hanno. Marco da Roma, dai. Intanto fatemi il numero di uno di questi posti. Io voglio esaltare pubblicamente qui uno di questi centri massaggi cinesi. Marco, vai, Marco. Eccoci. No, ti ho chiamato prima per le piazzole. Sì. Dimmi, che succede nelle piazzole? Dimmi. Tutta l'autostrada italiana è pieno, ogni piazzola, ogni parcheggio d'autostrada è pieno di gay. non è che dobbiamo andarli a cercare, come diceva l'ascoltatore di prima. Vabbè, pieno. Ma che fanno? Disturbano? Disturbano? Disturbano, poi al top sono Toscana e Emilia Romagna, noi mo lavoriamo, ci fermiamo, lo vediamo, no? Disturbano, è normale, vengono qui vicino, tu stai dentro per fatti tuoi, ti vedi la TV, parli al telefono, e comunque vengono, magari scendi, ti vengono vicino, ci vogliamo conoscere, e comunque diciamo che il disturbo te lo danno anche... Perché non è uno, due, sono tanti, è pieno. Vabbè, ma ragazzi, quindi, ma è possibile che tu racconti una cosa, un altro ne racconta un'altra, ci sarà una via di mezzo. Scusa, vabbè, basta farsi un giro su Piazzolo, in zona Modena, zona. Guarda, non con la macchina, vai là e vedi, non è che ti dicono. Lo vedono tutti, non è una cosa. Io ho visto. Quando tu sei dentro il camion, che cosa fanno? Bussano dunque? No, a bussare proprio no, perché qualcuno sì, più maleducato dell'altro c'è, però comunque passano sotto, camminano. Ti mandano i bacetti, magari passano in macchina nudi. Addirittura. Non è che ti vengono proprio da fastidio che ti vengono per il camion. Aspetta, aspetta un attimo. Buonasera. Sì, Shanghai? Sì. Sì, straordinari. Devo dire la verità, siete veramente un servizio pubblico, lo sai? Beh, non come, capito. Come ti chiami tu, scusami? Non dico, perché ti dico il mio nome? No, è importante questo. Voi siete un grandissimo servizio pubblico, zitto. Fate grande servizio pubblico. Servizio pubblico, però. Capito? Pubblico, no. Però. No, allora, aspetta, stai zitto un attimo. No, voi fate un grande servizio pubblico, cioè siete un posto fondamentale per la società italiana. Capisci o no? Ah, sì? Sì, tanto la pubblicità ha fatto non male, no? Dove non va, io ho scritto orario giusto, alle 9 chiuso, domenica chiuso, tutto vero. Sì, ma ho capito, ma da che ora siete aperti voi? 11. Dalle 11 di sera? Sì. O fino alle 11 di sera? No, mattina 11 fino alle sera 9, vuol dire tu entri alle 8, io posso fare, alle 9 no. Devi aggiornare però, devi aggiornare, sì. Devi aggiornare. Domenica chiuso, festa chiuso. Festa chiusa, però non è bello, se uno vuole venire la domenica come fa? Ah no, questo non è problema mio, è perché è Italia legge così, domenica bisogna riposo un giorno, minimo. Ma scusa, ma voi siete cinesi, dovreste lavorare sempre, amica mia? No, io non come cinese, io solo lavoro come italiano. Sì, ho capito, ma sei cinese però. Sì. Ho capito, ma dovreste lavorare 24 ore su 24. Io no, se io no, voglio. No, non mi è interessante altri cinesi cosa fanno. Tanto io vivo Italy, io. Ma se io voglio se venire. Se legge italiano, allora cosa non va? No, ma se io voglio venire la domenica, perché non posso venire? No, è quello tu vai a altre parti. Tanto qua è lì. Ma io voglio venire la domenica, amica mia. No. Non si può venire. No. Ma voi fate massaggio, solo massaggio fate? Certo, solo massaggio e trattamento viso e cerata e unghie e piedi. Beh, amica mia, anche la manina la fate, la muovete? No. Niente manina? Niente. Possibile, niente. A me mi ha detto un amico mio che è venuto là e avete fatto servizio manina. No, non parlare così tanto con me. Io non sono amica tua, non sono con te. No, non hai capito, un'amica mia, un mio amico è venuto da voi, ha detto che voi fate servizio manina. No. Beh, scusa, un mio amico è venuto... No. Ma come no? Allora, Ruben, provincia di Chieti, vai. Ciao, Brucia. Dimmi. Allora, partiamo da un punto fisso. Io impazzisco quando sento la zanzara. Sì. Siete grandi. La cosa volevo dire, ma io ti volevo chiedere un grande piacere. Sì, dimmi. Quando si collegano alla zanzara, sì. Cazzo, fai parlare alla gente che c'ha un minimo di quoziente intellettivo. E chi lo decide, tu? No, però porca puttana. Ma chi lo decidi, tu? Che... Lo decidi tu? Io chi, non lo chi decido chi ha il quoziente intellettivo. Io faccio parlare tutti allo stesso modo. Giuseppe della provincia di Chieti chiama da un sacco di anni. Porca troia, ma no, già ma non perché ti senti, un cazzo sulla perché radio. Perché ti senti più intelligente di Giuseppe della provincia di io Chieti? Io non sono più intelligente di nessuno, però almeno mi faccio capire. Vabbè, ma quello parla in modo particolare, però è Giuseppe della provincia di Chieti, è un personaggio. Alla fine è diventato un personaggio, tu non sei nessuno. cioè lui, capito, però lui è Giuseppe dalla provincia di Chieti, tu non sei un cazzo. Il fatto che la persona non ti fa capire, ma non lo so, Giuseppe dalla provincia di Chieti è fatto diventare un personaggio. Sì, Giuseppe, ma non lo è. Sì, ma non lo so se non lo è, non lo è. Giuseppe dalla provincia di Chieti a modo suo è un personaggio. Tu, Ruben dalla provincia di Chieti, non sei nessuno, non sei un cazzo, chiaro? Non sei sei il nulla. Oh, Cruciano, ma tu, oltre alla radio, che cazzo fai nella vita? Niente. Giusto così, per curiosità. Niente, distruggo, no, no, no, distruggo, le, vite, cioè, distruggo le vite degli altri. Riccardo da Perugia, vai, Riccardo. Ciao, ciao. Riccardo. Riccardo, dimmi. Buonasera. Dimmi. Senti, no, io volevo esprimere soltanto la mia vicinanza a Borghezio. Sì, vabbè, ragazzi, non è diventato l'ufficio solidarietà a Borghezio, no, questo qua. No, sti cazzi. No, perché è stato... anche pesantemente. Vabbè, Claudio da Milano, vai Claudio, vai Claudio. Claudio, ciao, buonasera, vai. Senti, volevo sottolineare queste richieste di indennizzi per razzismo che si chiedono questi signori di colore che abbassano nulla, che ti denunciano per razzismo. Ma dipende, no? non è che le denunce... Scusa, mi stai concludere. Ho visto uno su un tranno, che il conduttore del tranno gli ha chiesto di spostarsi, sì, con le sue, sì, mercanzie, questo qui, no, io non mi sposto, questo qui gli ha detto, torna al tuo paese. La denunciata gli ha chiesto 20.000 euro di... Sì, ma queste sono follie, naturalmente, queste no, sono follie. Io ho pensato, pensa a tutti i meridionali che negli anni 70, 60, sì, che dicevano, sì, torna al tuo paese. Poi vorrei sottolineare un'altra cosa, vedo che tutte le volte che c'è qualche signore che vi telefona, che ha delle cadenze, sì, meridionali, sì, voi lo prendete un po' in giro. Ma non è una forma di razzismo anche quella? Claudio, arrivederci, grazie ragazzi, a domani, ciao. Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Taci miserabile! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.